Infilati le mutande, caro, che puoi prendere una scottatura. No? Ah, ho capito, t'è ancora rimasta un po' di quella roba. Spalmala bene dappertutto, caro. E adesso l'altra. Oh, anche questo sarà un altro giorno felice. Sua Eminenza Reverendissima, dottor Carolus Hunter, cadavere nel bagno. Charlie Hunter. Chiudo gli occhi e mi ritrovo seduta sulle sue ginocchia nel giardinetto a Boru Green, sotto l'ippocastano. Che bei ricordi. Cercasi, giovane intraprendente, possibilità di carriera. Il mio primo ballo, il mio secondo ballo, il mio primo bacio. Un certo signor Johnson, o Johnston, o forse era addirittura Johnstone, dei baffi foltissimi di un bel biondo acceso, quasi rossi, in un capanno degli attrezzi, anche se non ricordo assolutamente più di chi. A casa nostra non c'era nessun capanno degli attrezzi, e che fosse suo non c'è nemmeno da pensarlo. Vedo ancora i vasi vuoti infilati uno nell'altro, i fasci di giunchi, le ombre che infittiscono fra le travi del soffitto. Cercasi, ragazzo volenteroso. Autentica, garantita, genuina, purissima. Autentica, garantita, genuina, purissima. Autentica, garantita, genuina, purissima. Setola, animale. Setola, animale. È questo che trovo meraviglioso, che non passa giorno, per dirla nel vecchio stile, non passa quasi giorno senza un arricchimento del proprio sapere, per quanto minimo l'arricchimento, voglio dire, basta prendersene la pena. E se per qualche strano motivo non ci sono a disposizione altre pene, è poco male, basta chiudere gli occhi e attendere che venga il giorno felice in cui la carne fonde a un dato numero di gradi e la notte della luna date centinaia di ore. È questo che trovo così consolante quando mi perdo d'animo e mi metto a invidiare le bestie selvatiche. Spero che tu stia facendo, tesoro. Cos'è che stai guardando, Willy? Posso vedere anch'io? Santo cielo! Ma cosa stanno combinando? Dico, ma questa è genuina, purissima immondizia, roba da far vomitare qualsiasi persona per bene. Ma si può sapere che fa quella creatura laggiù, nello sfondo? Oh no, non è possibile. Pua, portatela via. Setola, animale. E che animale sarà? Che animale sarà stato? Oh beh, che importa, è questo che dico sempre, mi tornerà in mente, è questo che trovo meraviglioso, tutto ritorna in mente. Tutto? No, non tutto. No, no, non proprio. Una parte. Un bel giorno, quando meno te lo aspetti, ritorna a galla. È questo che trovo meraviglioso. No. No, no, adagio, Winnie. E allora? Winnie, qual è l'alternativa? Qual è l'al... T'avessi lasciato dormire. Eh sì, Se solo avessi il coraggio di star sola, voglio dire di muovere la lingua senza un'anima che mi stia a sentire. E non che mi illuda che tu stai a sentire tutto, Willy, Dio me ne guardi. Certi giorni forse non senti addirittura niente, ma ci sono anche certi giorni in cui rispondi. Per cui, in qualunque momento, anche quando non rispondi e forse non senti niente, posso dire... Un po' di quel che dico viene sentito. Non sto solo parlando a me stessa, cioè nel deserto, cosa che mi è sempre riuscita intollerabile, sia pur per brevissimo tempo. È questo che mi permette di continuare a parlare, cioè, mentre se tu dovessi morire, per dirla nel vecchio stile, o andartene e lasciarmi, che cosa farei io? Che cosa potrei mai fare? Tutto il giorno, voglio dire, tra il campanello del risveglio e quello del sonno, soltanto guardare davanti a me con le labbra serrate. Non una parola di più finché mi restasse fiato, nulla per rompere il silenzio di questo posto, salvo forse di tanto in tanto, una volta ogni tanto, un sorriso nello specchio, oh! Un breve scoppio di riso se mi capitasse di ripensare al vecchio scherzo. I miei capelli! Mi sono già spazzolata e pettinata i capelli? Può darsi benissimo. Normalmente lo faccio. C'è così poco che si possa fare che lo si fa tutto. Tutto quel che si può. È umano. La natura umana. Umana debolezza. Debolezza naturale. Non vedo pettine né spazzola. Il pettine è qui, la spazzola è qui. Forse li ho rimessi dentro dopo l'uso, ma normalmente non rimetto le cose dentro dopo l'uso, no, le lascio in giro e le rimetto dentro tutte insieme alla fine del giorno, per dirla nel vecchio stile, caro vecchio stile. Eppure mi pare di ricordare... Oh beh, che importa, è questo che dico sempre, mi striglierò i peli più tardi, ho tutto il... I peli? Ho il pelo. Strigliare i peli mi sembra che suoni male. Come diresti tu, Willy, parlando dei tuoi, i peli o il pelo? Se lo dovessi strigliare, voglio dire... Se dovessi strigliarti, Willy, che cosa striglieresti? I peli o il pelo? Il pelo! Oh, oggi mi parlerai, questo sarà un giorno felice. Un altro giorno felice. Insomma, dove ero arrivata? Il mio pelo, sì, più tardi, mi farà molto comodo più tardi. Ho in testa? Sì, ce l'ho, ho il cappello in testa. Non posso togliermelo adesso. Pensare che ci sono dei momenti in cui uno non può togliersi il cappello, neppure se ne andasse della sua vita. Momenti in cui non lo si può mettere, momenti in cui non lo si può togliere. Quante volte mi sono detta, su, mettiti il cappello ora, Winnie, non c'è altro da fare. Togliti il cappello ora, Winnie, da brava, vedrai che ti farà bene. E non lo facevo, non potevo farlo. Li hai chiamati d'oro quel giorno, dopo che l'ultimo invitato era partito, ai tuoi capelli d'oro che possano sempre. Quel giorno, che giorno? Questa poi, le parole mancano. Ci sono delle volte in cui perfino loro mancano. Non è vero, Willy? Non è vero, Willy, che perfino le parole mancano a volte? E che cosa si deve fare allora aspettando che tornino? Strigliarsi il pelo se non è già stato fatto, se c'è qualche dubbio. Tagliarsi le unghie se hanno bisogno di essere tagliate. Sono tutte cose che ti aiutano a tirare avanti. È questo che voglio dire. È solo questo che voglio dire. È questo che trovo meraviglioso, che non passa giorno, per dirla nel vecchio stile, senza qualche benedizione. Travestita. Torna nel tuo buco ora, Willy. Ti sei esposto abbastanza. Dammi retta, Willy. Ti fa male restar lì sdraiato in questo sole d'inferno. Torna nel tuo buco. Su, muoviti, Willy. Bravo, così. Non a testa avanti, stupido. Se no come fai a voltarti poi? Ecco, così, girati. E adesso via, tutto all'indietro. Oh, lo so che non è facile, caro, strisciare all'indietro, ma ne vale la pena. Hai dimenticato la vaselina. Il coperchio! Non a testa avanti, ti dico. Un po' più a destra. Ho detto a destra. E tieni giù la coda, no? Così. Ah, finalmente. Mi senti? Ti scongiuro, Willy, soltanto un sì o un no. Mi senti? Soltanto un sì o niente. Sì. E adesso? Sì. E adesso? Sì. E adesso? Sì! Non temere oltre la vampa del sole! Questo l'hai sentito? Sì! Cosa? Cosa? Non temere! Che cosa? Non temere che cosa? Non temere! Dio ti benedica, Willy! Ti sono grata per quel che hai fatto, lo so che sforzo ti costa. Adesso puoi riposarti, non ti disturberò più, a meno che esaurisca le mie risorse, cosa molto improbabile. Mi basta sapere che in teoria puoi sentirmi, anche se in pratica non mi senti. Mi basta saperti lì a portata d'orecchio e presumibilmente sul chi vive, dover stare attenta a non dir nulla che tu non debba sentire o che possa dolorarti, non chiedo altro, e non cianciare, cianciare, per così dire, in buona fede, ignara, mentre c'è qualcosa che mi rode. Il dubbio, qui, intorno. Oh, lo so bene, verrà il giorno in cui prima di poter pronunciare una parola dovrò assicurarmi che tu abbia sentito la precedente. E poi, lo so bene, verrà un altro giorno in cui dovrò imparare a parlare da sola, cosa che mi è sempre riuscita, intollerabile in questo deserto. O guardare davanti a me con le labbra serrate tutto il giorno. No, no, no. Naturalmente c'è la sporta. Ci sarà sempre la sporta. Sì, con ogni probabilità. Anche quando te ne sarai andato, Willy. Te ne stai andando, Willy, non è vero? Te ne andrai presto, Willy, non è così? Willy! Ti sei tolta la paglietta, bravo, bravo. Lo sai che proprio l'aria di starci bene lì sotto col mento tra le mani e gli occhi azzurri come due sottocoppe nell'ombra? Chissà se mi puoi vedere di lì. Mi domando. Sto ancora a domandarmi. Oh, non credere che non immagini che cosa ti sta passando per la testa. Non basta dover stare a sentire quel che dice. Ora mi tocca anche guardarla. Beh, direi che è comprensibile, molto comprensibile. Non sembra molto quel che si chiede, anzi a volte sembrerebbe quasi impossibile pretendere di meno da un'altra creatura, a dir poco, mentre in realtà, quando ci rifletti, ti guardi nel cuore, vedi l'altro, ciò di cui ha bisogno, la pace. D'essere lasciato in pace. Allora forse la luna. Tutto questo tempo capisci che hai preteso la luna. Oh, ma dico, che cosa c'è qui? Sembrerebbe un qualche genere di vita. Una formica. Willy! Una formica! Una formica viva! Dove è andata? Ah! Si porta in braccio una pallina bianca. È entrata una specie di pallina bianca. Uova! Cosa? Uova! Formicazione! Cosa? Formicazione! Ma comunque è stata una gran gioia sentirti di nuovo ridere, Willy. Ero sicura che non mi sarebbe successo mai più, che non ti sarebbe successo mai più. O forse abbiamo riso di due cose completamente diverse. E adesso? Ero amabile una volta, Willy? Sono mai stata amabile? Non interpretar male la mia domanda. Non ti sto chiedendo se mi amavi. Su questo punto sappiamo tutto. Ti chiedo se mi trovavi amabile a un certo punto. No? Non lo sai? Il giorno è ormai molto avanti, per dirla nel vecchio stile. Eppure forse è ancora un po' presto per la mia canzone. Cantare troppo presto è un grave errore, ho scoperto. Naturalmente c'è la sporta. La sporta. Saprei enumerarne il contenuto? No. Saprei se una persona di buon cuore passasse di qui e mi chiedesse: che cos'hai in quella grossa sporta nera, Winnie? Darle una risposta esauriente? No. Browning. Ti ricordi di Browning, Willy? Ti ricordi quando continuavi a pregarmi di portartela via? Portamela via, Winnie, portamela via prima che la faccia finita con le mie pene, le tue pene. E adesso? È sempre la stessa la gravità, Willy? Ho l'impressione che sia cambiata. Sì, la sensazione sempre più netta che se non fossi trattenuta in questo modo volerei via, e che forse un giorno la terra cederà e mi lascerà andare, tanto mi tirano di sopra. Sì, si schiuderà tutto intorno a me e mi farà uscire. Non ce l'hai mai tu, Willy, questa sensazione d'essere risucchiato in su? Non devi tenerti aggrappato qualche volta, Willy? Willy! Risucchiato? Sì, amore, in su, in cielo, come una piuma. No, non ti succede. Beh, pazienza. Leggi di natura. Leggi di natura. Immagino che sia come per tutto il resto. Tutto dipende dal tipo di creatura che sei. Per conto mio, tutto quel che posso dire è che per me non sono più quella di una volta. Quando ero giovane, sciocca e graziosa, forse bella a mio modo. Perdonami, Willy, la tristezza continua a intromettersi. Ma comunque è una gran gioia saperti lì come al solito, e forse sveglio, forse intento a far tesoro di tutto questo, di una parte di tutto questo. Che giorno felice per me sarà stato finora. No, no, no. Ritengo di poter, sì, ritengo di poter aprire questo aggeggio ora. Si continua a dilazionare il momento dell'azione per paura di passare all'azione troppo presto, e il giorno passa, passa e va nella più completa inazione. Una volta sudavo moltissimo e adesso quasi più niente. Il caldo è molto maggiore, la perspirazione è molto minore. È questo che trovo meraviglioso, la capacità di adattamento dell'uomo alle più diverse condizioni. A tenerlo su, il braccio si stanca, ma non se si cammina, solo se si sta fermi. Curiosa osservazione questa. Spero che tu l'abbia sentita, Willy. Mi rattristerebbe pensare che non l'hai sentita. Mi stanca tenerlo su e non posso metterlo giù. Sto peggio ora che su che quando era giù, ma non posso metterlo giù. La ragione mi dice: mettilo giù, Winnie, non ti è di nessun aiuto. Metti giù quell'aggeggio e passa a qualche altra cosa. Non posso, non posso muovermi. No, qualcosa deve succedere nel mondo, qualche avvenimento, qualche mutamento. Io non ci riesco prima che possa muovermi di nuovo. Aiuto, Willy. No. Ordinami di metter giù questo aggeggio, Willy. Io ti obbedirei istantaneamente, come ho sempre fatto, onorato e obbedito. Ti prego, Willy, per pietà. No, non puoi. Beh, non te ne faccio una colpa, no? Con che coraggio, io che non posso muovermi, ne farei una colpa al mio Willy che non può parlare. Per fortuna ho di nuovo la lingua in forma. È questo che trovo meraviglioso, le mie due lampadine, quando una si spegne, l'altra splende di più. Eh sì, una grazia, una vera grazia. A terra, vecchio estintore! Immagino che questo sia già successo altre volte, per quanto non riesca a ricordarmene. E tu, Willy, ti ricordi che sia già successo? Lo sai cosa è successo, Willy? Col sole che picchia così forte, ed ora in ora più forte, non è forse naturale che finisca per appiccare il fuoco a cose che di solito non prendono fuoco, perlomeno in questo modo, spontaneamente, per così dire? E io stessa non finirò forse per liquefarmi prima o poi, o per bruciare, o non voglio dire necessariamente che prenderò fuoco, no, mi ridurrò a poco a un tizzone nero, tutta questa carne visibile. E d'altra parte, o forse m'è conosciuto un clima temperato? No, parlo di climi temperati e di climi torridi e sono parole vuote. Parlo di quando non ero ancora prigioniera in questo modo e avevo le mie gambe e l'uso delle mie gambe e potevo andarmi a cercare un posticino all'ombra come te quando ero stanca del sole, o un posticino al sole quando ero stanca dell'ombra come te, e sono tutte parole vuote. Oggi non è affatto più caldo di ieri, domani non sarà affatto più caldo di oggi, come potrebbe esserlo, e così via, guardando nel più remoto passato e nel futuro più remoto. E se mai un giorno la terra dovesse coprirmi il seno, quel giorno non avrò mai visto il mio seno. Nessuno avrà mai visto il mio seno. Spero che non ti sia sfuggito quel che ho detto, Willy. Mi rattristerebbe pensare che ti è completamente sfuggito. Non mi capita tutti i giorni di toccare simili altezze. Sì, qualcosa sembra che sia successo. È sembrato che succedesse qualcosa e niente è successo. Assolutamente niente. Hai proprio ragione, Willy. Ancora, Willy, ancora! Please, Willy, ti prego! No, non vuoi farlo? Beh, è molto comprensibile, molto comprensibile. Non si può cantare solo per far piacere a qualcuno, per quanto gli si voglia bene, no. Il canto deve nascere dal cuore. È questo che dico sempre, sgorgare dai precordi come il tordo. E adesso, strana sensazione che qualcuno mi stia guardando. Sono nitida, poi sfocata, poi sfenta, poi di nuovo sfocata, poi di nuovo nitida, e così via, avanti e indietro, entrando e uscendo dall'occhio di qualcuno. Strano? No, qui tutto è strano. Viene a galla, nei miei pensieri, un certo signor Shower. Un certo signor Shower, e forse anche una signora Shower. No, si tengono per mano. Deve essere la sua fidanzata piuttosto. O magari soltanto una innamorata. Shower, Shower. Ti dice niente questo nome, Willy? Sì. Shower, Shower, o Cooker, forse dovrei dire Cooker. Cooker, Willy, non ti ricorda niente il nome Cooker? Cooker, Willy, non ti suggerisce niente il nome Cooker? Oh, questa. Non hai un fazzoletto, caro? Non hai un po' di delicatezza? Oh, Willy, non vorrei mica mangiarlo. Sputalo, caro, sputalo. Beh, in fondo è una cosa naturale, umana. Che cosa si deve fare tutto il giorno, un giorno dopo l'altro? Il vecchio stile. Beh, comunque, quest'uomo, questo shower o cooker, non importa, e la donna, tenendosi per mano nell'altra mano delle valigie, specie di grosse borse marrone, in piedi davanti a me a guardarmi con la bocca aperta. E finalmente questo shower o cooker, comunque finiva per er, potrei giurarci. Che sta facendo questa? Dice. Che diavolo fa questa? Dice, piantata fino alle gambe in questa terra merdosa, un tipo volgare. Che significa? Dice. Che significato ha? E via, di questo passo un altro bel po' di chiacchiere come queste, solita sbavata. Mi senti? Dice. Sì che ti sento, dice lei, e che Dio m'aiuti. Che vuoi dire? Dice lui, Dio m'aiuti. E tu? Dice lei. Che cosa significhi? Tu? Dice. Che significato hai? Solo perché sei ancora sui tuoi piedi piatti, col tuo vecchio saccone pieno di immondizie in scatole e biancheria di ricambio, a trascinarmi così avanti e indietro in questo merdoso deserto, una donna volgare, degna compagna. Molla questa mano e crepa, per Dio, dice lei. Crepa! Perché non la scava fuori? Dice lui, alludendo a te, caro. A che cosa gli serve una donna in quelle condizioni? A che cosa serve lui a lei in quelle condizioni? E via di questo passo, solita pappa. Bene, dice lei, abbi un po' di cuore, per amor di Dio. Ora la scavo fuori, dice lui. La scavo fuori, non ha senso che resti così. La scavi fuori con che cosa? Dice lei. La scavo fuori con le mani, dice lui. Dovevano essere marito e moglie. Volto gli occhi e vedo che si allontanano, tenendosi per mano, e le valigie, piccoli piccoli, poi più niente. Gli ultimi esseri umani a capitare da queste parti. Strano, in un momento come questo, che mi sia venuto in mente. Strano? No, qui tutto è strano. E adesso? Forse è ancora un po' presto per prepararsi per la notte. Il vecchio stile. Eppure io mi sto preparando per la notte. La sento vicina, il campanello del sonno, e mi dico: Winnie, non si farà più attendere molto, Winnie, il campanello del sonno. Qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Qualche volta è tutto finito, quel che può dare il giorno. Tutto fatto, tutto detto, tutto è pronto per la notte. E il giorno non è finito, tutt'altro che finito. La notte non è pronta, tutt'altro che pronta. Ma di rado, sì, è il campanello del sonno. Quando lo sento vicino e comincio a prepararmi per la notte, in questo senso qualche volta mi sbaglio, ma di rado. Una volta pensavo, dico che una volta pensavo, che tutte queste cose rimesse dentro la sporta, se troppo presto, rimesse dentro troppo presto, si potevano ritirar fuori da capo, se necessario, in caso di necessità, e così via, indefinitamente. Dentro e fuori, finché il campanello non si mettesse a suonare. Invece no, no, no. Potrà magari sembrare strano questo, come dire, questo che ho detto, sì, strano, se non fosse che tutto sembra strano, molto strano, mai nessun cambiamento, è sempre più strano. Stufo del tuo buco, caro? Beh, ti capisco. Non dimenticarti la paglietta. Non strisci più come una volta, povero Willy. No, non strisci più come quando ti ho dato il mio cuore. Mani e ginocchia, amore. Prova con mani e ginocchia. Le ginocchia. Che maledizione, la mobilità. Lo sai che cosa sogno ogni tanto? Cosa sogno ogni tanto, Willy? Che fai il giro e vieni ad abitare da questa parte dove io ti potrei vedere. Sarei un'altra donna, irriconoscibile. Beh, comunque, non dovrebbe tardare molto ormai il campanello. Autentica, garantita. Ma che cos'era? Genuina, purissima. Ah, setola animale. Che animale sarà? Che animale può mai essere secondo te, Willy? Ti prego, Willy, che animale sarà stato? Un porco! Questo è davvero un giorno felice. Questo sarà stato un altro giorno felice. Dopotutto, finora. Cercasi giovane intraprendente, possibilità di carriera. No. No, no. E adesso canta. Canta la tua canzone, Winnie. No? Allora prega. Prega la tua preghiera, Winnie. Cercasi ragazzo volenteroso. Prega la tua vecchia preghiera, Winnie.